Kajus, Garavi, Mastro Beat, Gocce, Gocce, Gocce d'acqua. Sulle mani in alto, verso il blu cobalto, verso il limite celeste. Se vi dicessi cosa vi aspetta, non mi credereste. È una base ignorante, Mastro, hai dato il peggio di te, però mi fa muovere la testa, mi fa far festa, perciò la userò. Ma quando siamo ignoranti, Mastro, a fare un pezzo così io non so. Ma fa muovere la testa, fa far festa, non è male, ti dirò. Non ci sono cazzi, quando Gocce d'acqua è sul palco succedono schiamazzi. E tutti i ragazzi in giro combinano i trallazzi con le fighe allupati da pazzi. Prime che si elevano da terra come razzi, si inoltrano nei tuoi spazi a piedi scalzi, furtive come ninja trasparenti, potenti come un calcio di Bruce Lee sui denti. Mi senti? O devo avvicinarmi? Dimmi come comportarmi, come impostarmi, come imbustarmi in busta o armi per insaccarti e darti modo d'amarmi o di odiarmi. A seconda che tu stia dalla mia oppure sull'altra sponda, ma la mia rima trionfa e ti inonda, è fluida come l'acqua, il sudore che ti gronda. Vuoi perché mi stai sfidando e sei già stanco? Vuoi perché mi stai ballando a satanata a fianco? Ma io sto fuori dal branco, non sono un leone ma un leopardo, un macaco, un lupo solitario, un maccato, un cane bastardo bastonato. Sia panda che tigre ti mangio con lo sguardo, che spargo le tue ceneri sul palco e ritorno in letargo da Mastro nella foresta di Fangorn. È una base ignorante, Mastro, hai dato il peggio di te, però mi fa muovere la testa, mi fa far festa, perciò la userò. Ma quando siamo ignoranti, Mastro, a fare un pezzo così io non so. Ma fa muovere la testa, fa far festa, non è male, ti dirò. Un leopardo, un macaco, un lupo solitario, un macaco, un cane bastardo, bastardo.